24 mattino di Alessandro Milan. E allora eccoci alle 7:21 minuti, mi sono incartato subito in apertura. Bene. L'ultima puntata della settimana di 24 mattino in diretta fino alle 9 come di consueto. Intanto vi preannuncio che alle 8:30 nel nostro sondaggio parleremo del processo breve, di tempi di prescrizione ridotti per gli incensurati. Questa è l'ultima proposta che fa discutere la politica. Che ne pensate? Votate su radio24.it il sondaggio, mentre dico anche che alle 8:20 avremo come nostro ospite per l'intervista il segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:21 minuti. Voglio salutare il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Buongiorno, onorevole Bersani. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, la pausa di riflessione del governo italiano sul nucleare, così l'ha definita, pausa di riflessione il ministro Romani, la tranquillizza? Ma adesso per adesso sono parole, ci sono degli atti in Parlamento, se si vuole essere coerenti si sospendono questi atti. Dopodiché io aggiungo che noi anche prima dei fatti giapponesi avevamo buone ragioni per contestare un piano nucleare che non ha fattibilità peraltro né sul piano economico né dal punto di vista della possibilità di essere accettato. Siamo un paese che non riesce ancora a fare un deposito di superficie per i rifiuti del vecchio nucleare, insomma, quindi fare cose difficili dovrebbe fare quelle facili. Dopo il Giappone è chiaro che c'è una riflessione generale da fare su questa tecnologia e quindi il governo, se intende fare questa riflessione, sospenda gli atti parlamentari, ad esempio quello sulle localizzazioni. Sospenda gli atti parlamentari. Senta, a questo proposito, è compatibile la posizione del professor Veronesi a capo dell'agenzia e che siede in Parlamento, diciamo, votato nel PD? Insomma, adesso che i due mestieri non fossero compatibili l'ha dichiarato per primo il professor Veronesi. Ecco. Adesso non lo so, l'evoluzione delle cose, alla luce delle novità drammatiche, lo stesso professor Veronesi ha detto che ci vuole una pausa seria di riflessione sul tema, quindi io credo che andrebbe ridiscusso un po' tutto. Ieri le celebrazioni dell'Unità d'Italia, lei i fischi a Berlusconi come li interpreta? È una cosa che le fa piacere come capo dell'opposizione o le fa dispiacere perché è un'istituzione il Presidente del Consiglio? Ma insomma ci vorrebbe un paese dove non c'è bisogno di fischiare certamente, però qui in Italia diciamolo pure, qualche buona ragione quei cittadini di protestare ce l'hanno, poi è spiacevole che avvenga nel giorno della festa dell'Unità Nazionale, però insomma rendiamoci anche conto della percezione generale che hanno i cittadini della situazione di oggi. Insomma, ecco, è vero che siamo davanti a un governo azzoppato, mentre l'Italia ha un sacco di problemi di cui non si riesce nemmeno a discutere. Questo è il punto. Noi non riusciamo a discutere di lavoro, non riusciamo a discutere di redditi, non riusciamo a discutere di inflazione, non riusciamo a discutere dei temi economici e sociali che sono il clou della questione che abbiamo davanti, a cominciare dalla disoccupazione dei giovani. Noi dovremmo discute solo di questo e non invece non se ne discute mai, che dove la gente fondamentalmente percepisca questo, ecco, al di là del caso Rubbi o di quant'altro. Voi però insistete a chiedere le dimissioni, per voi avete presentato queste firme, ma ci svela il giallo, 10 milioni, qualcuno contesta, come si fa? Ma è inutile, possono contestare finché vogliono, insomma, noi abbiamo messo giù 20.000 banchetti in tutta Italia in 4 weekend e in più abbiamo mandato 4 milioni di moduli a famiglie italiane, ogni modulo poteva contenere 20 firme, tanti, ancora adesso stanno arrivando moduli così, in più si poteva firmare su internet, è stata una mobilitazione enorme e basterebbe insomma chiedere a chi questi banchetti li ha organizzati per sentirsi dire che è stato facilissimo, insomma, non è stato così facile un banchetto. Quindi, d'altronde le rilevazioni che fanno poi i vari istituti dicono questo, che la maggioranza del paese in questo momento non vorrebbe Berlusconi capo del governo, non è mica una grande novità, è la questione che a barbicarlo su un parlamentare più in meno, vediamo poi con quali sistemi, ci si illude di dare governabilità a un paese che vuole altro, credo si possa dire che siamo paralizzati. Siamo paralizzati, le dice. Senta, il fatto che Bossi ci fosse ieri e dice c'ero io, dunque la Lega c'è. Ma sono quei giochetti, uno sta a casa, l'altro viene, Ma insomma, sono cose veramente, io non so neanche più come commentarle, insomma, no, perché io dico così, non è obbligatorio, non lo ordina il dottore far parte di una maggioranza di governo, di un governo, non lo obbliga il dottore. Se uno ritiene di stare in una maggioranza o in un governo, avendo giurato sulla Costituzione, sulla bandiera, per favore le rispetta, se no va a casa. E il Presidente del Consiglio deve pretendere che la sua maggioranza dignitosamente rispetti il ruolo istituzionale. Non si può mandare una delegazione a una celebrazione del genere e lasciare a casa la maggioranza dei deputati. Io credo che sia francamente inaccettabile. Non so in quale paese del mondo sarebbe accettata una cosa. Ho ancora un paio di domande, segretario. La prima è questa: che risponde a Chiamparino, che qualche giorno fa ha detto il PD così a volte sono colto dal pessimismo, non ha futuro? No, è già pure pessimista che il Chiampa, al quale voglio bene, ma non so insomma come la pensa. Io sono di parere totalmente contrario, nel senso, rispetto a quella battuta, che resta una battuta, perché invece l'aria che tira, gli elementi che abbiamo alle mani ci dicono che sia per quel che riguarda il PD, sia che per quel che riguarda il centro-sinistra, c'è maggior comprensione da parte dell'elettorato, dei cittadini, della nostra battaglia. Certo, dobbiamo far di più anche noi, adesso, e mostrarci con un profilo di governo, di alternativa. Adesso io annuncio qui che lunedì noi presenteremo, noi, e lo daremo a Tremonti, eccetera, una nostra proposta del piano di nazionale di riforme, quello che l'Italia deve consegnare a metà aprile all'Unione Europea, alla Commissione, al Consiglio Europeo. Noi presenteremo un nostro piano di riforma, un quadro macroeconomico e un pacchetto di riforme che secondo noi servirebbero. Ce ne anticipi una, ce ne anticipi la prima. Quella del fisco. Quella del fisco. Quella del fisco, numero uno, quella del fisco. Bisogna assolutamente alleggerire lavoro e impresa, caricare su reddito e evasione. Si può, ci sono i meccanismi per farlo, abbiamo la nostra proposta e credo che quello sia un punto di partenza ineliminabile, se vogliamo creare un po' di lavoro. Senza la patrimoniale. Senza la patrimoniale che hanno messo loro nel decreto sul federalismo municipale. Ecco, L'ultima domanda è questa: per il candidato premier del centrosinistra ci vogliono le primarie oppure il candidato e il segretario del PD, cioè lei? Ci vuole la coalizione, ci vuole il quadro di alleanze e il progetto, e insieme si decide il metodo. Noi l'abbiamo anche nel nostro statuto, le primarie ci sono se la coalizione le decide. Noi naturalmente siamo un partito che ha un segretario e quindi il segretario ha anche un dovere d'ufficio, ecco, di non escludersi come candidato, ovviamente, questo va da sé, però davanti a tutto va messo il progetto di alternativa, e quindi dobbiamo lasciarci questo tema alla discussione fra i contraenti del partito. La ringrazio, buona giornata Pierluigi Bersani, segretario del Partito Democratico, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo e poi dopo la pubblicità parliamo nel nostro sondaggio di giustizia, di questo processo breve che andrà in discussione lunedì, settimana prossima, la Commissione Giustizia, a quale si profila un emendamento che fa discutere quello che prevede la prescrizione più veloce per gli incensurati, una norma che chi l'ha proposta dice una norma per le persone, per premiare le persone per bene, visto che sono incensurate anche se imputate, invece una norma ad personam, dice l'opposizione, una norma che poi verrà calata come un vestito sui processi di Berlusconi. Questo è il tema politico in questione. Votate su radio24.it, vi va bene la questione di una prescrizione accelerata, più breve, per le persone incensurate, oppure se volete intervenire 800 24 00 24, tra poco 24 mattino. Eccoci qua alle 8:36 minuti. Allora, c'è un emendamento al cosiddetto processo breve, un emendamento che viene proposto dal giornale Così, introduce la prescrizione abbreviata, una prescrizione più breve, tempi di prescrizione più breve per chi è imputato ma è incensurato. È il tema del nostro sondaggio. Siete d'accordo a questa idea di fondo? Ne parliamo nel nostro sondaggio. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E ne parliamo con colui che è il relatore di questo emendamento, l'onorevole Maurizio Paniz, che ritroviamo del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buona giornata a tutti. Così come l'onorevole Pierluigi Mantini dell'UDC, che saluto, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno al collega Pani. Allora, io faccio una premessa tecnica, perché va fatta come l'ho trovata sui giornali, poi mi si dirà se questa premessa è malandrina, diciamo, lo chiederò subito all'onorevole Paniz. Allora, sapete che in Italia molti reati vanno in prescrizione. Quando vanno in prescrizione? Beh, attualmente il tempo della prescrizione si calcola così, diciamo, è pari alla pena massima prevista per un reato, alla quale si aggiunge un quarto del tempo. Facciamo l'esempio, ecco qui l'interpretazione malandrina, ma l'esempio era su tutti i giornali: il reato di corruzione in atti giudiziari, la pena massima prevista dal codice è 8 anni, aumentando di un quarto, quindi 2 anni in più, a 10 anni si arriva con la prescrizione. L'emendamento dell'onorevole Paniz riduce questo aumento di un quarto del tempo a un sesto del tempo per le persone che sono appunto incensurate. Quindi il reato di corruzione in atti giudiziari non sarebbe più di 10 anni, ma di 9 anni e 4 mesi. In prescrizione in 9 anni e 4 mesi. Sempre secondo questa interpretazione, onorevole Paniz, malandrina, il Premier, che è imputato, è incensurato per corruzione in atti giudiziari, con questi tempi di prescrizione nel processo Mills andrebbe tutto in prescrizione a giugno e non a febbraio dell'anno prossimo, e dunque, diciamo, sarebbe già in prescrizione. Siamo stati troppo malandrini, onorevole Paniz? Secondo me sì, siete stati totalmente malandrini, perché lei ha taciuto due cose molto importanti. Ha taciuto di ricordare che l'aumento di un quarto attuale è previsto per gli incensurati e per i recidivi, cioè c'è persone che non hanno commesso mai alcun reato e persone che invece sono state condannate per aver commesso i reati. Poi lei ha omesso di ricordare che invece è previsto un aumento di metà del tempo per le persone che sono recidive infraquinquennali, cioè che hanno commesso più reati e sono state più volte condannate, e ho omesso di ricordare che è previsto un aumento di 2/3 nel caso in cui ci siano dei recidivi che siano delinquenti abituali, cioè che hanno commesso una pluralità di reati ed abbiano subito una pluralità di condanne. Secondo me era doveroso distinguere tra incensurati e recidivi, perché non è giusto trattare nello stesso modo le persone che non hanno mai avuto una condanna e Perfetto. Le persone che invece hanno avuto una condanna. Quindi il principio è questo, generale, cioè non è una norma ad persona, ma come, io dico sono malandrino, ma in realtà le ha letti lei i giornali, l'hanno posta così molti giornali e molti dell'opposizione, non è una norma ad persona, ma è una norma generale per punire, per premiare le persone per bene rispetto a quelli recidivi. Le aggiungo, se avessi voluto beneficiare in qualche modo il presidente Berlusconi, bastava soltanto che io lasciassi le cose come stavano. La maggioranza avrebbe approvato il processo breve e per Berlusconi il processo era già finito, quindi bastava che io non toccassi assolutamente nulla, quindi c'erano molti modi per agevolarlo. Aggiungo di più che io sono stato molto chiaro nel dire che il testo di legge non si applica ai processi in corso, quindi lei capisce che anche da questo punto di vista se avessi voluto agevolarlo lo avrei potuto fare in termini molto molto molto facili. Allora, tenga presente, le aggiungo un'ultima cosa, che io sono l'unico parlamentare di Forza Italia che non ha voluto votare qualche anno fa l'indulto. Sì, è vero, per dirle è vero. Che nella mia logica coloro che sono stati condannati devono pagare di più degli innocenti. E allora perché l'onorevole Mantini, come altri, come l'UDC, che per esempio dice a questo punto è l'ennesimo escamotage, nessun dialogo sulla giustizia, lei onorevole Mantini, le van bene le interpretazioni dell'onorevole Paniz, oppure c'è insomma questa idea di una legge fatta apposta, di un emendamento fatto apposta? No, guardi, io non dubito della serietà del collega Paniz, il problema qui è che, va bene, prendo anche per buona la sua versione, non è un aiutino specifico dedicato al Presidente del Consiglio, è un piccolo aiutino che si applica anche al Presidente del Consiglio e abbrevia la prescrizione di un processo che è alle porte, il processo Mills, su cui francamente vi sono prognosi, poi per carità decideranno i giudici, infauste per il Presidente del Consiglio. Quindi l'effetto è comunque quello di aiutare anche il Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo primo processo. Però il punto è che è sbagliata la logica anche, perché mentre un incensurato ben può godere e oggi gode della sospensione condizionale della pena e di altre misure, altri benefici relativi alla pena, proprio perché si tratta, diciamo, di un primo reato importante, ecco, e quindi è sulla pena che si agisce, in questo caso si dice, siccome si è incensurati, il processo tendenzialmente si può anche non fare, ossia si deve fare in termini più brevi e dunque deve estinguersi prima, ma questo non ha nessun senso dal punto di vista della teoria delle pene e della logica processuale, quindi noi non siamo d'accordo sull'idea generale, a prescindere dalle finalità che comunque, insomma, sono, come dire, utili. Ma anche se l'onorevole Panis dice non si applica ai processi in corso, anche su questo viene smentito, però insomma lui è avvocato, il giornale ha dato invece un'interpretazione, dice no, si applica, Mantini, insomma, si applica ai processi di Berlusconi oppure no? L'onorevole Panis dice di no. Berlusconi si applica anche ai processi di Berlusconi, comunque si applica a tutti i cittadini e quindi anche ai processi di Berlusconi, e in ogni caso non ci piace la logica generale, perché bisogna agire sulla effettività della giustizia per tutti e non continuare, come ormai si fa da troppi anni, a cercare escamotage, scappatoie per non fare i processi, cioè per abbreviare le prescrizioni. Noi già abbiamo avuto la legge ex Cirielli, abbiamo avuto una quantità di scudi, di legittimi impedimenti, di altre misure, è tempo di pensare a misure per rendere più rapida, celere ed effettiva la giustizia per tutti i cittadini, ma arrivando a un risultato, sì, cioè questo, tra l'altro, a celebrare i processi, ma infatti a questo fare le sentenze, è un concetto, non a estinguere, ecco, è un concetto secondo il quale molti ascoltatori, anche onorevole Panis, lei che fa l'avvocato, dicono già molti non concepiscono l'idea della prescrizione, cioè di perché un reato si debba prescrivere, e vabbè, però insomma questo è previsto dal codice penale, però invece che fare il processo accorciamo i tempi di prescrizione, per cui se uno ha un buon avvocato, se uno riesce a tirare in lungo un processo, via, tutto va in cavalleria, onorevole Panis, non è, no? Le ricordo che per quanto riguarda la vicenda Mills sono già passati abbondantemente oltre 12 anni, quindi non è che la giustizia non abbia avuto il tempo di perseguirlo se voleva perseguire Berlusconi. Io credo poi, rispetto a coloro che dicono che non ci dovrebbe essere nessuna prescrizione, che è proprio un principio antistorico, sono 2000 anni che è stata introdotta nel diritto la prescrizione, cioè stabilire che un cittadino abbia un limite massimo entro il quale può essere condannato, e io credo che se la giustizia non riesce a condannare un cittadino dopo 15, 12, 18, 22 anni e mezzo, come succede per certi tipi di reati, si rivede qualche cosa sul sistema giustizia, non rivedere qualche cosa sul sistema della prescrizione. E sottolineo ancora una volta, riferisco a tutti i cittadini italiani, che controllino se ritengono che sia giusto trattare nello stesso identico modo una persona incensurata e una persona che è già stata condannata. Questo è il principio cardine. E infatti questo è il principio cardine sul quale chiediamo prescrizione breve per gli incensurati. Devo dire, per il sondaggio per il momento il 72% dice no, cioè un principio che non concepisce, questo nel nostro sondaggio che facciamo su Radio24.it, che potete votare. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ripartiamo con i nostri ospiti e qualche ascoltatore. Bianco o nero? Allora, ci stiamo interrogando e vi stiamo interrogando a cercare di capire cosa ne pensiate del fatto che sia stato inserito un emendamento nella norma sul processo breve, un emendamento che prevede tempi di prescrizione abbreviati, tempi di prescrizione più veloci per chi è incensurato rispetto a chi invece è, per esempio, un recidivo. Sentiamo Maria da Roma, buongiorno, ci ha chiamato l'800 24. Chiamata perché sì. Io ho un po' di queste cose anche le ho sofferte con i giudici, perché ci hanno fatto perdere varie cause, abbiamo capito che poi si erano anche venduti, e dopo 7, 8, 10 anni, e come? A Berlusconi tutto in fretta si fa, e perché? Perché vogliono distruggere l'Italia, perché la sinistra non sa come vincere ai giudici. Le elezioni, questa è una nostra opinione. Maria, lei è partita, però lancia in resta, ma sì, le chiedo... Sì, perché proprio ce l'ha qua. Noi di cultura che abbiamo studiato, che i posti ci siamo guadagnati, non regalati dai sindacati come erano nella scuola nostra, professori da quattro Maria, però scusi, va bene, mi faccia, però le chiedo sul tema, sul tema di cui stiamo discutendo. Capisco che lei c'ha qua qualcosa che si voleva dire, cioè è giusto che sia fatta questa prescrizione e che tutto sia favorito, che ci sia l'impedimento e tutto il resto. Non si è mai visto che un presidente come il nostro, cioè, ma lei sta dicendo, lei sta dicendo, mi scusi, sia salito da tutti. Maria, lei sta dicendo, Maria, mi ascolti, lei sta dicendo è giusto che venga fatto, e che venga fatto proprio anche per Berlusconi, cioè perché è un perseguitato dai giudici. Anche se ci sia il mezzo Berlusconi, tanto lì è il tutto lì vogliono distruggere Berlusconi, con Berlusconi in Italia. Ma che ci abbiamo alla sinistra, mi scusi, ma le vede quelle facce? Mi scusi, sa, prima avevamo Bersani, prima. Sono di destra, ma voi siete un po' l'ha ascoltato, noi siamo un po' di sinistra, chi? Voi siamo però un po' di sinistra, intelligenti, effettivamente ascoltate. Va bene, siamo di sinistra, Maria, se non lo so, tanto guardi, la metterò in contatto con tutti quelli che mi accusano di essere di destra, vi mettete in contatto, vi fate un meetup, questi di Beppe Grillo, vi date la vostra sentenza, processo brevissimo, e poi me la comunicate. È caduto l'altro ascoltatore? Sì, grazie Maria da Roma per il momento. Onorevole Mantini, ma è possibile che in Italia non si possa, non si riesca a fare comunque discussioni sulla giustizia, perché sempre, sempre a Berlusconi si finisce, cioè si finisce a parlare di Berlusconi. D'Alema ieri sentiva dire una riforma della giustizia proposta da un imputato non è neanche ricevibile. Ma guardi, io non sono di sinistra e dalla signora Maria traggo tre cose utili, al di là del tono, che insomma in generale... No, ma va bene così. Non del tutto. Ecco, il primo è che naturalmente occorre una giustizia molto più rapida, più efficiente, e su questo siamo tutti un po' colpevoli, nel senso che non si dedicano sufficienti energie, mezzi e risorse, anzi si sottraggono a questo scopo. Questa dovrebbe essere la bussola della nostra azione, anche del confronto, un confronto unitario. Punto secondo, che certamente i giudici possono sbagliare, a volte anche per colpa grave, ed è giusto in questo senso che con legge ordinaria, senza stravolgere la Costituzione, si rafforzi un pochino la legge attuale sulla responsabilità civile della magistratura, che oggi non granché funziona. Il punto terzo è che sì, Berlusconi, perseguitato o non perseguitato, noi abbiamo fatto una proposta, diciamo, equilibrata, che tiene in conto le esigenze della politica ma anche quelle della giustizia, che è quella della possibilità della sospensione del processo, in particolare condizione ove richiesta, solo per la durata del mandato, dell'esercizio del mandato. Nel successivo però il processo si fa. Neanche questo tipo di proposta viene accolta, perché si ha in mente una logica un pochino sì ossessivamente impunitaria nei confronti di qualcuno. E allora, se non si ritrova un equilibrio, francamente anche la proposta delle grandi riforme costituzionali rischiano di essere spot, annunci, propaganda e anche una grande perdita di tempo, allora, per il paese, che dovrebbe occuparsi davvero di lavoro, futuro dei giovani, Libia, eccetera, e anche di far funzionare la giustizia e non di non farla funzionare con le prescrizioni. Io vorrei sentire Andrea da Prato, buongiorno Andrea. Andrea, ci sente? Sì, benissimo, dica. Lei mi sente? Benissimo, dica. Facevo questa considerazione. Io sono di quelli che ritiene che la norma sia, sono di quelli che condivide l'interpretazione malandrina, ma mi pare irrilevante. La cosa fondamentale, cioè la considerazione che volevo fare io, è questa: essere incensurati non è un merito, è un dovere, non ha bisogno di premi. Essere incensurati non vuol dire aver dato qualcosa di più alla comunità, vuol dire essere nell'ambito della comunità e comportarsi come è lecito essere. Perché sì, ma voglio dire, l'onorevole Panis dice, per l'appunto, proprio siccome è un comportamento giusto di uno che sta nella legalità, non deve essere equiparato a uno che invece è imputato in un processo ed è recidivo, insomma. No, ma io sposterei l'attenzione non tanto sul paragone tra incensurato e recidivo, lo sposterei sul reato. Allora, se te se è ipotizzato che tu abbia commesso un certo reato, questo ti rende uguale sia che tu sia incensurato sia che tu sia recidivo. Io faccio un paragone forzato che ho detto anche al centralinista. Sì. Mi pare, e non condividevo nemmeno quello, una cosa molto simile e non condivisibile, tipo quella che la preside del Nord, non mi ricordo quale città, dà 100 euro ai ragazzi. Ah, ce ne siamo occupati. Andare a scuola e dare il meglio di sé. Vi abbiamo fatto una puntata, caro Andrea. Lei l'ha sentita. Ma è orripilante dare 100 euro se uno va bene. Sono stato a scuola e ho dovuto. Vabbè, Andrea, grazie, ma io devo chiudere tra un minuto, sennò usciamo dal seminato. Onorevole Paniz, però le chiedo questo in conclusione: non ho capito per quale motivo questo emendamento non si applicherebbe al processo Berlusconi, contrariamente a quanto dicono al processo Berlusconi, come a tutti i processi, contrariamente a quanto dicono i giornali. Cioè, che cosa c'è? Perché? Io non ho detto che questo emendamento non si applica al processo Berlusconi, io ho detto che la legge sul processo breve non si applica ai processi in corso. La prima cosa che io ho fatto quando sono diventato relatore, ho detto che avrei tolto la norma transitoria, cioè avrei impedito che il processo breve, che stroncava sul nascere il processo Berlusconi, si applicasse ai processi in corso. E l'ha fatto. Quindi al processo Berlusconi l'ho fatto. Successivamente ho chiesto alle opposizioni di collaborare con me per stendere un testo che fosse costruttivo. Non c'è stata nessuna collaborazione. A quel punto ho deciso autonomamente, nell'ambito dei miei convincimenti, lo ribadisco, c'è quello per il quale incensurato e recidivo non debbano essere trattati nello stesso modo. Ed è un principio che trova le sue radici in quello che è il testo attuale della norma, perché il testo attuale della norma tratta nello stesso modo incensurati e recidivi e tratta in maniera differenziata i recidivi infraquinquennali e i delinquenti abituali. Io ritenevo che ci fosse la necessità di una differenziazione ulteriore tra incensurati e recidivi. Questa è la mia logica del processo Berlusconi, non mi interessa assolutamente. Poteva, onorevole, mi faccia chiudere una battuta, poteva fare aumentare la prescrizione ai recidivi invece che diminuirla agli incensurati. Certo, però avrei dovuto aumentare anche la prescrizione ai recidivi infraquinquennali e ai delinquenti abituali. A quel punto il processo, invece che durare fino a un massimo di 30 anni, ne durava fino a un massimo di 45. A me sembra che, secondo la mia logica, 45 anni per fare un processo sarebbero troppi. Va bene. Perché la logica è logica per tutti. Grazie all'onorevole Paniz del Popolo della Libertà e all'onorevole Mantini dell'UDC e per essere stati con noi, con Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. C'è ancora la nostra bandiera italiana che svetta dietro l'Alpinola. Che dire, vediamo appuntamento a lunedì prossimo. Ora Oscar Giannino, a lui la linea.